Allora, buonasera a tutti, benvenuti e benvenuto soprattutto all'ospite di questa sera che è Antonio Manzini. Grazie. Antonio è qui a parlarci dei suoi ultimi due libri, ma lo discutevamo prima mentre ci avvicinavamo, peraltro passeggiando, insomma, qui ci è piaciuto molto fare questa passeggiata per Massagno. Ha fatto tanti mestieri, è stato attore, ha fatto l'Accademia, ha scritto per il teatro, per il cinema, per la televisione e ora è scrittore. E allora, prima di parlare dei suoi libri, io volevo chiedergli se questi mestieri che hanno un fil rouge, hanno un tratto comune che è la comunicazione, qual è il primo, quello, come dire, che ti sei sentito più naturale addosso? Innanzitutto buonasera a tutti, grazie tante di avermi invitato. Ci tengo a far contento un mio amico che mi ha detto: vai in Svizzera, cerca di arrivare puntuale, non fare la figura di merda. e siamo arrivati puntualissimi, io alle 6:25. Tu puoi testimoniarlo. Eravamo alla fontana. Sì, eravamo alla fontana, quindi io questa cosa l'ho fatta e sono già molto felice, perché per la prima volta esportare una cosa positiva dal mio paese non è così semplice. Grazie. Forse se partiamo dalla puntualità, hai visto mai che piano piano... chissà, vabbè, ma sono pensieri in libertà, perdonatemi. Solo che non mi ricordo più la domanda. Mestieri. I mestieri a Milano sono quelli che puliscono la casa. No, quello non l'ho fatto, cioè non lo facevo quando avevo 20 anni, che non avevo una lira, mi pulivo casa da solo. No, io ho cominciato, sì, no, grazie a te, ho cominciato facendo l'Accademia d'Arte Drammatica tanti anni fa. Sono uscito tantissimi anni fa, ma proprio tanti anni fa, e poi ho cominciato a fare il teatro. Era bello perché io quando ho cominciato erano vivi Gassman, Manfredi, Tognazzi, sono uscito dall'Accademia, sono morti tutti nel giro di 3 anni, e ho detto vabbè, ma tanto andremo avanti lo stesso, io ero convinto, invece no, lì dovevo capire che c'era un problema, infatti lentamente questo mestiere, che poi voglio dire... buon artigianato quando uno lo sa far bene, è diventata una specie di lavoro impiegatizio, ma poi pian piano mi sono reso conto che non mi interessava più e mi sono ricordato che io scrivevo le cose e le nascondevo, spesso facevo anche bene a nasconderle, mi vergognavo a farle leggere, insomma è normale, finché incontrai un tipo che non stava benissimo, adesso credo sia ricoverato, non in Italia perché con la legge Basaglia i manicomi l'hanno chiusi, non so dove l'hanno messo, che lesse questa roba che era, io l'avevo scritta come un monologo teatrale, che mi davo anche delle aree di drammaturgo io, e disse: ma questo è un romanzo, dici? E io gli ho dato retta purtroppo, e quindi pubblicarono questo primo libro che si chiamava Sangue Marcio. Poi insomma mi sono messo, poi scrivevo un po' per la televisione, un po' per il cinema e mi sono messo a scrivere perché in realtà era la cosa che preferivo, la cosa che mi piaceva di più. Adesso mi trovo ingabbiato in questa cosa, se io stavo pensando se ogni 20 anni cambio mestiere, tutto sommato questo dovrebbe essere più o meno l'ultimo, perché non credo che fra 20 anni sarò ancora su sto pianeta, insomma più o meno, soprattutto se continuo a vivere lì dove vivo. E quindi dovrebbe essere forse l'ultimo cambiamento che ho fatto. Scrivo. Quindi quello definitivo. Sì, io penso di sì, anche perché scrivere c'ha una grande virtù, non per chi scrive, ma il fatto che tu lo possa fare spesso da solo. Quindi non hai rapporti con gli altri, cosa che invece quando fai teatro o cinema hai solo rapporti con gli altri, che è disastrante per uno che come me, come la legge che ci fu di Cossiga, più di 3 è sedizione, cioè più di 3 persone comincio già ad avere dei problemi a parlare con più di 3 persone. Però certo è dura, molto dura, e non pensavo che fosse un lavoro così pesante. Alcuni miei amici scrittori me l'avevano detto, dice: guarda che è meglio fare l'attore, tutto sommato vai lì, dici 2 minchiate che sai a memoria e te ne vai a casa. Invece lì sei lì che scrivi da solo e è tosta, e hai solo te stesso con cui arrabbiarti. E quindi niente, adesso grazie a Dio scrivo i romanzi, li riesco a pubblicarli e sono molto felice. Altrimenti sarei morto facendo lo sceneggiatore per la televisione, che è una delle cose... Ma forse è una pena infernale, secondo me. Penso che sia una pena infernale, cioè è un gradino sopra a quelli che spalano sterco, più o meno. C'era una battuta di un regista americano che io non avevo capito, ma l'ho capita facendo lo sceneggiatore televisivo, che diceva: come fai a capire a Hollywood qual è l'attrice più cretina? È quella che si è sposata lo sceneggiatore. Non ha capito niente proprio. Però adesso capisco perché c'era sta battuta che girava sullo sceneggiatore. Mi sono messo quindi a scrivere per la televisione. Vi risparmio i particolari. Un giorno, quando sarò vecchio e stanco, li racconterò. Ma sono niente male, insomma, sono delle belle storie lì. C'era un seriale che girava in Italia che si chiamava Boris, che era la storia divertente un po' sulla televisione, ma in confronto Boris è edulcorato, è una cosa carina, divertente, è quasi una commedia per famiglie. In realtà viene più quella battuta di Blade Runner: ho visto cose che voi umani, eccetera eccetera, che però è entusiasmante dal punto di vista umano, perché poi hai delle belle esperienze. Quindi comunicare, più o meno io faccio questo. Adesso spero di poterlo continuare a fare con i libri, che è la cosa che preferisco, e sono contento di stare qua. Senti, dopo facciamo un piccolo cronistoria, perché dopo, sì, Sangue Marcio, che era uscito per Fazzi, per un editore diciamo medio, e che forse oggi è difficile un po' da trovare, invece sei arrivato a Einaudi, dove hai pubblicato un romanzo più corale che si chiama La giostra dei criceti, e adesso in una sede che secondo me è anche una bellissima sede per uno scrittore di gialli, perché fa anche un lavoro proprio di ricerca sul genere, come appunto Sellerio, con un personaggio che ha cominciato le sue prime due indagini, il Rocco Schiavone, commissario, vicequestore. Questo è una costante dei libri. A lui ci tiene. Ma è vera questa cosa? Sì, è vera in parte, in realtà poi nella scientifica c'è ancora il commissario capo, cioè, ma lui la parola commissario, a parte comunque che adesso si chiamano vicequestori, dà fastidio perché gli ricorda, ha delle reminiscenze politiche più che altro, e questa cosa lui lo spaventa, non gli piace. Sì, perché Rocco Schiavone, il vicequestore, come tiene appunto a precisare, è uno dei tormentoni, potremmo quasi dire, insomma, dei tuoi romanzi, è nato in uno di quei quartieri dove o diventi ladro o diventi guardia. Lui è diventato guardia, però non ha rinnegato né il quartiere né i ladri con cui giocava guardie e ladri, cioè lui ha ancora questo rapporto con i suoi amici, che, sì, è una parte molto bella, secondo me, del tuo personaggio, e anche forse che si potrà sviluppare, insomma, che crescerà. Ma sai, lui, Rocco Schiavone, è nato a Trastevere ma più o meno alla fine degli anni 60. Per chi è come me è romano, sa che Trastevere non è un posto dove, come adesso, cioè un posto turistico dove le case costano 15.000 euro a metro quadrato. Trastevere era un quartiere molto popolare, e per dire, le culle erano dei bambini appena nati, erano i cassetti del comò della nonna, tiravano e quella era una culla, no? Quindi Rocco è nato in una casa popolare, era quell'estrazione sociale lì, e sì, all'epoca a Trastevere, io da piccolo a Trastevere non ci andavo, non a caso quella che chiamano la banda della Magliana, purtroppo salita agli onori della cronaca, in realtà è la banda di Trastevere, perché i due capi principali erano uno di Trastevere e l'altro di Testaccio, che è un quartiere limitrofo ancora più popolare di Trastevere. Quindi era un luogo malavitoso, pieno di strozzini, non ci si andava a Trastevere a passare le serate come succede adesso. E Rocco è nato lì, è cresciuto sulla strada, ha imparato le cose sulla strada, e i suoi amici, appunto, come dicevi giustamente te prima, facevano la stessa cosa, solo che sono rimasti dall'altra parte della barricata. Lui è diventato un poliziotto, non per scelta, ci si è trovato, insomma, e infatti è un poliziotto un po' un po' particolare, lui confonde molto il lavoro del poliziotto con quello del giudice, per esempio, che oddio, in Italia non è l'unico che confonda queste cose, adesso ci penso. Però fra gli altri c'è anche lui, confonde le due cose, e si fa i processi da solo e arriva più o meno al verdetto finale da solo, che fa parte proprio di una cultura stradaiola, se così vogliamo, di chi nasce, cresce e si difende sui sanpietrini romani, ecco. È quello che forse gli ha dato la forza per andare avanti. Non mi ricordo che altro. Sì, anche perché quando noi incontriamo Rocco Schiavone, sì, non lo incontriamo a Roma, lo incontriamo ad Aosta. Eh sì, è giusto che sia così, perché Rocco Schiavone era un anno che mi rompeva le scatole e voleva uscire a tutti i costi, e stava funestando i pensieri. Quando ha cominciato a funestare anche i sogni, ho detto, beh, forse è il caso di farlo uscire questo qui. Io stavo a Champoluc perché vado a sciare da tanti anni in Val d'Aosta e stavo al rifugio e dico, secondo me Rocco Schiavone deve stare qua, cioè si merita questa cosa qua, lo devo mettere in mezzo alla neve, uno di Trastevere con le Clark, il Loden, no? Che proprio il Loden poi è una cosa che i tirolesi lo mettono d'estate. A Roma pensano che sia un cappotto invernale, no. I tirolesi a Merano se lo mettono verso agosto, così più o meno. Quindi l'Oden non serve a niente proprio in Val d'Aosta. E poi mi piaceva perché aveva, ne parlavamo prima, la montagna valdostana è una montagna alta, imponente, ti schiaccia, è nera, è scura, non è quelle bellissime montagne, le vallate trentine o venete che sono verdi, aperte, le Dolomiti, che sono un respiro dell'anima, no, sono, cioè, la montagna più bassa sta sopra i 3.000 metri, fanno paura quelle montagne lì. Ecco, per uno che massimo è andato a Monte Mario, il colle più alto di Roma, quando viene a sapere che c'è gente che vive a 1.500 metri d'altezza, lui si chiede, ma cazzo fanno questi a 1.500 metri? Non capisce, non si rende conto, ed era giusto che lui facesse una specie di contrappasso, andasse lì, perché comunque erano 6, 7, 8 mesi che mi stava diventando un ansiogeno lui e anch'io. L'ho messo per questo motivo in Val d'Aosta. In realtà io la Val d'Aosta la amo tantissimo, amo la gente di lì, bisogna capirli piano piano, sono persone, insomma, che vivono a 1.500 metri, devi capire, hanno un rapporto con l'acqua stranissimo, veramente, ma non perché non si lavino, per carità di Dio, no, con loro, per loro l'acqua o è neve, cioè solida, oppure hanno pochissimi laghi, per esempio lì, no? Il mare non sanno neanche proprio, e capirai che anche noi e non lo usano neanche per innaffiare, per esempio, una cosa pazzesca. Se c'è una cosa che si fa in Italia, ma credo in tutto il mondo, se c'è un lago c'hai delle culture pazzesche di lì, c'hanno le vigne, ma c'hanno dei laghetti, ma non li guardano con... E invece per uno che nasce a Roma, che praticamente sguazza in quella roba lì, è curioso, è strano, no? E questo è un rapporto anche poi di... Ti dà un mondo, anche un mondo di pensieri, di atteggiamenti, di caratteri, che Rocco non può capire. A parte la lingua, proprio non può capire, non è attrezzato culturalmente per capire quelle zone lì. E questo mi divertiva troppo. Metterlo là, anche perché lui era stato mandato lì punito. Ecco, questo è, come dire, la premessa, non stiamo ancora svelando, non ci sono spoiler, sì, nulla di... La premessa è che lui è lì perché, come diceva Antonio, ha confuso un po' i ruoli, insomma. Sì. Ha confuso i ruoli, si è proclamato giudice, però, insomma, diciamo a fin di bene, nel senso che ha pestato i piedi a una personalità politica molto importante, ma l'ha fatto per un motivo molto odioso. Quest'uomo politico, che poi prende di mira Schiavone e lo confina, perché poi ne parliamo, ma insomma quello di Schiavone è proprio un esilio, quest'uomo politico ha un figlio che è uno stupratore, seriale proprio. Sì. anche questa origine è... Sono un stupratore seriale, anche un cretino, ma nel senso più scientifico, anche se cretino non è una parola scientifica del termine, è proprio deficiente, ha delle proprio delle mancanze oggettive. E no, lui quando lo ferma, lo prende e si lascia un po' andare, insomma lo riduce in ospedale, quindi questo lo puniscono e lo mandano ad Aosta. Ma la cosa divertente è che gli dice la moglie: tu sei tipo Al Capone, ti ha mandato ad Aosta per la cosa meno grave che tu hai fatto in vita tua, in realtà. Ti è andata anche bene, no? Dovresti essere cacciato dal corpo di polizia, ma lui è un bravo segugio, un bravo professionista, per cui non l'hanno cacciato, ma l'hanno messo... Ah, poi ci tengo a dire una cosa, per chi insomma, avesse seguito il giudice Ingroia, che era un nostro giudice che fu mandato ad Aosta pure lui, dopo le elezioni, no? Non prese un voto, lo mandarono ad Aosta. Ci tengo a dirlo che io l'avevo scritto prima di questa cosa. Cioè, non ho preso l'idea, insomma. Forse qualcuno si è ispirato. Io spero di no, perché in Groia mi hanno detto che è vendicativo, e se qualcuno si è ispirato, essendo lui un magistrato, sono sì miei, perché spero di no, spero che neanche l'abbia letto, veramente. Me lo auguro. Senti, per fare conoscenza, per presentare un pochino Rocco, io sì. Approfitterei anche insomma della tua capacità di porgere. Ce la leggi questa paginetta sulla preghiera del mattino, così? Perché abbiamo detto che è un poliziotto un po' sui generis, però finché non ci arrivate, finché non lo leggete, è difficile immaginare quanto sui generis sia, pensando alle immagini di poliziotti che il giallo di solito ci racconta. Allora ti chiederei se sì. Ti va. Ma ci ha messo il segno? Questa, proprio questa. Allora. Le diottrie vanno via con una velocità superata una certa età? Nei lontani tempi del liceo, Rocco aveva letto che un filosofo, forse Hegel, aveva definito il giornale la preghiera laica del mattino. Per lui invece la preghiera laica del mattino era arrollarsi una canna d'erba che lo rimetteva in pace con la vita e con lo stare così lontano da Roma da ormai 4 mesi, senza possibilità di tornarci. Non che ce l'avesse con Aosta, anzi, era una bellissima città, civile, gente educata, ma sarebbe stato lo stesso se l'avessero mandato a Salerno, o a Mantova, o a Venezia. Il risultato non cambiava. Non era la destinazione ad affliggerlo, era la casa madre, il suo recinto esistenziale, la sua cuccia, a mancargli più di ogni altra cosa. Prese la chiave da sotto la foto incorniciata di Marina e aprì il primo cassetto a destra. Dentro c'era una scatola di legno con una decina di spinelli belli gonfi già preparati. Ne accese uno e mentre richiudeva a chiave il cassetto fece una tirata lunga e generosa che gli arrivò dritta nei polmoni. Curioso come bastasse questo piccolo gesto quotidiano a placargli il cervello. Alla terza boccata si sentiva lucido e cominciò a pianificare la giornata. Grazie. Ecco, questa è solo una delle così abitudini e delle particolarità che rendono Rocco Schiavone un poliziotto inusuale, e cosa che veramente rende belli i libri di Antonio, fuori dal coro e dallo stereotipo dell'ispettore o del commissario che è sempre affabile, sempre affascinante, sempre ironico. Rocco è uno scorbutico, è uno che ti dice: io sono così, se ti vado bene mi prendi così, se no non mi sposto proprio di un millimetro. Infatti all'inizio può anche sembrare come dire, un po' antipatico, diciamolo, e prima si parlava proprio di questa cosa, cioè di come spesso il nostro giallo, quello televisivo ma insomma anche quello letterario, si sieda, si sdrai, si appiattisca su questo immagine, per cui il poliziotto è sempre bravo, buono, mentre poi leggi le cronache, non è così, no? Non lo so, ho frequentato tanti poliziotti, un po' per scrivere, un po' per vicende personali, non è che sono stato in galera, ci tengo a dire, ma però una cosa la voglio dire che mi ha fatto troppo ridere. Dopo che è uscito il secondo libro, un giorno apro la mail e leggo: Polizia di Stato, Questura di Aosta. dicono. Anche tremava il mouse, non riuscivo neanche a aprire la lettera. Era proprio il questore di Aosta proprio che mi scriveva, che di cognome fa Cilie. Inghiavalla tutto così. Anche ho capito che gli era piaciuto il romanzo, perché lui si sentiva molto Rocco Schiavone. Andata bene. E mi disse: quando viene ad Aosta mi venga a trovare in questura. Ma perché non un caffè a Piazza Chenu, che bella, cioè, in questura, sa. No, poi ci sono andato, una persona meravigliosa. No, ti dicevo dei poliziotti, io non lo so, i poliziotti, i discorsi generalisti sono sempre un po' pericolosi, come i medici, gli avvocati, gli scrittori, gli attori, i politici. C'è la persona meravigliosa, c'è quello orribile, voglio dire, ci succede a tutti, credo che succeda a tutti ogni giorno di incontrare persone meravigliose che condividono la nostra professione anche e merite schifezze. Diciamo che Rocco vive in un paese pieno di contraddizioni, se vogliamo essere carini e eufemistici. Vive in un paese dove le forze dell'ordine combattono, magari muoiono di cancro perché vanno a vedere cosa sta succedendo alla Terra dei Fuochi, e il giorno dopo applaudono una sentenza di non colpevolezza di tre guardie che hanno ucciso un ragazzo a calci. Per cui anche questa è una grande contraddizione, bisogna affrontarla. Ci stanno quelli che lasciano la pelle per il bene comune e quelli che, insomma, hanno preso il mestiere da un altro punto di vista. Ci sono dei grandissimi ispettori, commissari, vicequestori, e poi c'è un racconto bellissimo di uno della Scientifica di Bologna, in cui lui diceva: ma sa Manzini, noi quando andiamo sul luogo del delitto succedono cose un po' strane. E mi racconta un fatto: sulla Porrettana, che è una strada che da Bologna va verso le montagne, c'era stato un omicidio in una casa e c'era questa donna nuda, riversa sul letto, tutto sangue dappertutto, una scena terrificante, e evidentemente si vedeva che era stata violentata anche dall'assassino. Quindi una tristezza, insomma, anche avere a che fare con queste cose non è allegro, no? Lì i poliziotti lavorano, mentre questo signore, che era poi il sostituto, era il vice commissario della Scientifica, stava lavorando, gli arriva un poliziotto che dice, che è romano peraltro, gli fa: che casino, eh? Dice: sì, terribile, guardi, in parte sta casa disordinata, non è disordinata, c'è stato un omicidio, non è che uno piega. Sì, ma pensi, dottore, sono andato in bagno, nel water c'era un preservativo usato, ho tirato l'acqua, ho pulito. Gli era venuta la botta della casalinga al poliziotto, no? Allora uno ha voglia, si esai. Lui diceva: io spero Dio che arrivino sempre prima i carabinieri sul luogo del delitto, ma non perché sono più intelligenti, semplicemente hanno i guanti d'ordinanza. Quindi sono loro che toccano, e invece di trovare le impronte digitali della brigadiere, del maresciallo, non troviamo niente perché i carabinieri hanno i guanti. Quindi lui sperava, se no, se le orme che troviamo sono sempre le nostre, fanno la pipì, cioè una cosa terrificante. Però poi invece ci sono anche delle eccellenze, no? Tipo i RIS, che hanno rotto le balle in televisione, ma in realtà sono carabinieri RIS. Comunque ci sono delle eccellenze anche investigative. E Rocco è la contraddizione del paese, è la contraddizione del mio paese, la contraddizione anche di... Prendo un esempio, casualmente, Francesco Totti, ma non lo so perché mi è venuto in mente lui, che è indubbiamente un grande calciatore, ma è anche indubbiamente una gran testa di cazzo, voglio dire. Le cose vanno di pari passo, no? È uno che sputa in faccia a una persona mentre gioca a calcio, ma perché? Oppure prende a calci, poi però lui regala ambulanze all'ospedale Bambin Gesù. E questa è la contraddizione che poi, in particolare non solo gli italiani, ma in particolare i romani, proprio ce l'hanno endemica, e Rocco Schiavone ce l'ha, ci convive, vai lui. E ci convivo pure io. Senti, a proposito, visto che siamo arrivati su Roma, Roma è un personaggio delle tue storie, è il personaggio assente, perché è, anche nel brano che ci hai letto, è presente in sottotraccia e però non, come dire, non si manifesta nella sua realtà. Io pensavo che quello che la nostalgia che sente un esule è fatta spesso del ricordo, quindi di una fotografia, di una cristallizzazione. Poi quando tu torni in un posto dove, da dove sei mancato, per forza, per necessità, e ti rendi conto che si è trasformato. E allora volevo chiederti il tuo rapporto con Roma, se anche tu ti senti un po' esule, ti manca una Roma, quale Roma ti manca? Se, è banale dire mi manca la Roma della mia adolescenza, non è che mi manca Roma, mi manca la mia adolescenza probabilmente. Roma è una città che ha subito un'evoluzione negli ultimi anni spaventosa, un'evoluzione culturale, sociale, ma quasi antropologica, quasi direi. È diventata una città molto, molto, molto disordinata, molto provinciale, aggressiva, molto violenta. Non è più Roma di quando ero piccolo io, anche trentenne. È diventata brutta, è diventata scostante, scostumata. Io sono scappato 3 anni fa, sono andato a vivere in campagna, perché non la reggevo più, perché non era più la mia città, non c'era più niente di poetico, neanche nelle espressioni più volgari che Roma ha quotidianamente, dove però c'era sempre quell'anima popolare che rendeva anche la volgarità più assurda e più spinta, qualcosa comunque di positivo, di tenero, di romantico, e niente, adesso è diventato solo volgare, solo una volgarità senza struttura, senza un passato, bastarda nel vero senso del termine. Non c'è più la generosità, che il romano comunque era un personaggio più o meno generoso, era una persona aperta, non c'è più, c'è sospetto, c'è delazione, c'è violenza, e tutto questo è sotto gli occhi di chi, come me, ha amato questa città, è insostenibile. E in realtà Rocco piano piano sta scoprendo e scoprirà che forse, appunto, come quando, non so a chi è capitato di tornare nel posto dove è nato dopo tanti anni, quasi sempre si dice: ma era così piccola la strada, io me la ricordavo enorme. E Rocco comincia a ricordare una Roma che più per abitudine e per vizio lui amava che per un sincero sentimento non ricambiato dalla città. Quindi Roma è a questo. Tutti i romani, me compreso, si augurano che questa città un giorno torni a essere quella che era qualche anno fa, che era sicuramente più ospitale, ma non per i pellegrini, più ospitale per chi ci vive a Roma. Però è una speranza vana, perché poi è il sistema paese che è sbagliato, non è il sistema Roma che è sbagliato. Roma è soltanto la punta dell'iceberg di un paese abbastanza alla deriva, almeno io sento sulla mia pelle questa cosa. Basta dare un'occhiatina a come vanno le cose giù in Italia per rendersene conto, e ti dispiace, perché tutto sommato il popolo italiano è un popolo per lo 70% un popolo meraviglioso, che meriterebbe altro. E invece sembra che sia condannato ad essere comandato da quel 30% orrendo, fangoso, distruttivo, e che mi intristisce come intristisce anche Rocco. Io sono triste quando un poliziotto, Roberto Mancini mi pare si chiami, debba morire di cancro perché è andato a vedere cosa ha combinato la camorra nella terra dei fuochi. Io mi intristisco molto, e non succede niente. Però come sono morti i magistrati, poi devo scoprire che Andreotti baciava Lima. Non lo so, per un se non hai un po' di ironia, essere italiano è molto difficile, perché ci sarebbe da farsi, da fare tutt'altro. I controsensi del mio paese sono dei controsensi che mi piace mettere in Rocco, che fa sì che un italiano può anche essere creativo e simpatico, però dopo casa sua è diventato un disastro, non c'è più, non ci entri neanche più a casa sua. C'è un mio amico che dice una frase bellissima: mi tocca vivere in un paese dove non ci andrai neanche a fare le vacanze. È vero, basta girare anche nel turismo, il turismo che dovrebbe essere forse il primo cespite di guadagno del mio paese, è disastrante, perché il turista viene sventrato, viene violentato, perché mangia subito adesso e vai via, no? Ma no, questa non era l'Italia, questa non era Roma, non era il mio paese, non... Però paghiamo le conseguenze di tante cose sbagliate. Abbiamo, ecco, abbiamo delle eccellenze nella malavita, per esempio, che quelli pochi paesi hanno. Cioè, non tutti possono vantare ben 3-4 tipi diversi di criminalità organizzata, ci vuoi tenere a dire questo. Non solo autoctone, cioè nate proprio a casa nostra, eh? Questo è importante, questo è proprio made in Italy. Non è che, sai, anche negli Stati Uniti ci sono tantissime criminalità organizzate, ma sono tutte importate. Una è nostra proprio, ce l'abbiamo esportata noi, un'altra è giapponese, credo. No, noi ce ne abbiamo 4. Ed è divertente vedere chi... È un po' come la classifica dei libri, chi va meglio quest'anno? Mo va forte la 'Ndrangheta. Sì, perché hanno praticamente preso Milano, praticamente, che sta qui vicino. Io mi auguro che voi li fermiate lì a Chiasso, perché... Vabbè, lasciamo stare, va. Però ci sono. Sono fra noi. Non spero non qua dentro. Se no mi spara. La Camorra va forte nel sud. Poi c'è la Sacra Corona Unita, che pochi conoscono. Un po' sottovalutata. Molto sottovalutata. È un po' come quelle squadre di Serie B che poi ti vincono il campionato, no? Cioè, ma tu guarda il Verona, l'avresti mai detto? Verona è una bella squadra, la Sacra Corona Unita, forte, gliela molla. E poi vabbè, c'è la madre di tutte quante, che è la mafia, che insomma ci teniamo particolarmente, abbiamo proprio... Noi la usiamo un po' come fanno Hollywood con i cowboy, no? Facciamo sempre film sulla mafia. Io purtroppo ho scritto... Posso raccontare sta sciocchezza? C'era un seriale televisivo che si chiamava Squadra Antimafia. Credo che ci sia ancora. No, per dire come si scrive la televisione, che tutto c'è tranne mafia, la mafia è tutt'altro, comunque. Io stavo scrivendo la quarta puntata, che si intitolava Eleonora, una cosa del genere, perché la protagonista era Eleonora, una delle poliziotte che faceva di tutto, cioè spaccava, arrestava, era meraviglioso, l'ira di Dio di roba, insomma, queste sciocchezze qui, no? A 3 giorni della consegna della sceneggiatura mi chiama il capo degli sceneggiatori e mi dice: senti, ti do una cosa fantastica. Sì, dimmi. Stai per consegnare, c'ho una notizia da darti, sì. Eleonora muore in seconda puntata. Il mio episodio si chiama Eleonora. Lo so. Ma come muore in seconda puntata? Sì, perché il produttore non gli piace l'attrice. Ho capito, fatela arrivare in quarta, facciamola morire in quarta. Io ho scritto 120 pagine su sta scema che... No, muore. Dico: senti, mi posso prendere il funerale? Già fatto in terza. Io che faccio tutta la puntata se non c'ho più Eleonora, che era la storia? Ma non lo so, inventati qualcosa in 3 giorni. La cosa pazzesca è che io ho scritto una puntata, mi ricordo, assurda, dove spuntava gente mai vista prima che moriva dopo 5 minuti. Qualcosa c'è dopo, mette dentro, no? Molti inseguimenti, sparatorie, ma anche senza senso. Gente che usciva di casa e cominciava a sparare così, presa da una... Tanta la mafia, si dice, no? Questi sparano. Sparavano, smitragliavano, bellissimo. E dico: ma io la consegno, ma... La cosa pazzesca è che non solo nessuno ha detto niente, l'hanno anche girata e l'hanno anche mandata in onda. E nessuno ha detto: scusate, ma la quarta puntata, ma che era? Che cos'era? Non lo so cosa fosse, era una roba... Poi mi ricordo che ho preso anche robe vecchie che avevo da un altro seriale, ce l'ho sbuttate dentro, quindi facendo anche un danno, perché non della Rai, mi ricordo. Ho messo una vecchina che veniva investita, non so chi fosse, investita da un cattivo, e 10 minuti su sta vecchina uccisa, che però, ma chi è? Non si sa, però lo metto. No, questo per dire, no, noi la mafia la usiamo molto come il western, come i cowboy, no? E ne facciamo anche degli eroi ogni tanto, che è la cosa più simpatica del mio paese. E stiamo a pensare se Totò Riina debba avere il 41 bis o meno. Bah, io riaprirei la Sinara, per dire, no? Dove lo lascerei senza cellulare, però pare che invece sono disumano. Io però ho conosciuto, però anche la scorta di Falcone erano umani, no? No? E allora io ho scritto Rocco Schiavone, che non c'è la Sinara ma c'è Rocco. È Ecco, senti, a proposito di questa amarezza, no, che sembra sempre accompagnare Rocco e che forse un pochino Rocco si porta dietro da, dalle cose anche che ci hai raccontato, c'è un passettino proprio breve, in cui, che introduce una cosa secondo me bella, importante, e a parlare è la donna che Rocco nel primo libro e anche nel secondo frequenta, e Nora. Nora, che dice che era sempre così. Dopo il coito, l'umore di Rocco Schiavone diventava più nero della gola di una caverna. Dopo 4 mesi, Nora l'aveva capito. Quello che ancora non capiva erano i tempi di quell'uomo. Prima di fare l'amore era intrattabile, dopo peggio. Solo durante si apriva uno squarcio tra le nubi e si vedeva il sole. Quello che Rocco avrebbe potuto essere se la vita gli avesse sorriso un po' di più. Ecco, io leggo questo pezzettino perché una parte importante della vita di Rocco è il rapporto con le donne. Intanto lui è lì perché ha difeso delle donne. E però non si può negare che sia un maschilista. Un maschilista proprio tradizionale, insomma, nel... Ha paura. E si nasconde dietro questo suo maschilismo per puro terrore. Perché lui aveva questa moglie, che non c'è più, questo si intuisce. Ed è l'unica donna che lui è riuscito ad amare nella sua vita. Adesso ha paura di ritrovare un rapporto profondo, anche di stima reciproca, non soltanto di affetto, perché in realtà quello per lui è il vero tradimento, ma non è il tradimento soltanto di una donna, ma è il tradimento di un'idea, perché se la moglie non c'è più lui c'entra qualcosa, e quindi è un tradimento doppio per lui, un tradimento al cubo, al quadrato. Mia madre che insegna matematica ha sempre detto che era una capra, se su 2 è al cubo, no? E quindi il suo rapporto con le donne è un rapporto spaventato, aggressivo, perché ne ha il terrore, fondamentalmente ne ha timore, panico. Lui non dorme mai con la donna con cui fa l'amore, torna sempre a casa come se la moglie fosse lì ad aspettarlo. Mi piace molto guardare i documentari sui lupi, soprattutto quando il lupo alfa viene buttato fuori dal branco, o perché è un po' vecchiarello, o perché ha sbagliato, perché i lupi sono spietati. Quando il capo sbaglia lo mandano via, non lo mandano 7 giorni con i vecchietti. Questo lupo viene mandato via dal branco, e che succede? Diventa il famoso lupo solitario, no? Che è pericoloso perché è solo, e il lupo sa vivere soltanto in branco, sa cacciare in branco, da solo quasi non sopravvive solo se mangia carcasse, o se il branco, per pietà che anche gli animali ce l'hanno, gli lasciano dei resti, ma se no è destinato a morire, soprattutto è destinato a non accoppiarsi più. E questo un po' Rocco ce l'ha. Rocco è fuori dal branco, si trascina in un'esistenza fatta di scampoli, di incertezze e di ruberie. Ruba quel poco d'amore che riesce a rubare e quel poco di cibo che trova, perché lui ha sbagliato, quindi lui è un lupo solitario in questo. Questo ci assomiglia molto. Quindi lui un po' ha paura, un po' anche probabilmente non ha niente da offrire, è talmente disidratato dentro che non ha più da offrire un granché a una donna. Però le difende, cioè in tutti e due i tuoi libri questo è una costante. Lo dico perché della seconda indagine di Rocco Schiavone, che è il libro più recente di Antonio, si chiama La costola di Adamo, si è scritto sottolineando molto il fatto che l'indagine verte su un delitto di genere, quello che adesso viene chiamato femminicidio, che è una realtà odiosa, ma è una parola, se possibile, ancora più odiosa, perché come tutte le parole che diventano brand dopo si logorano. E invece Antonio aveva già scritto di questa cosa, trovo sbagliato appiattire il tuo lavoro su questo aspetto. E, senti, è un tema che ti sei imposto o è un tema che così naturalmente tu hai sentito? È un tema con cui purtroppo sono venuto a contatto un anno e mezzo fa e dovevo parlarne. C'è una cosa che ci tengo a dire, anche perché ho fatto delle telefonate io per questa informazione, non è che c'è del lavoro qua dietro. Al 21 novembre dell'anno 2013, anno in cui ho scritto il libro, i casi di femminicidio in Italia sono stati 122. Poi aggiungo una postilla che vi evito, però 122 sono tantini. Qui sono femminicidi e non parliamo di violenza fisica o ancora peggio violenza psicologica, no? Quindi non sono accertati, non sono denunciati, sono tanti, per un paese civile sono tanti. Rocco incrocia purtroppo una storia simile e la risolve come solo lui la può risolvere. Devo dire come mi sarebbe piaciuto risolverla a me, sì. In questo io sono stato abbastanza vicino a Rocco, però giuro che se dovessi scrivere il terzo libro mi riallontano, perché stare vicino a quest'uomo non è una cosa meravigliosa, anzi è scomodo. Allora lo rimetto un po' a distanza. Qui mi sono un po' incontrato con lui. Sì, c'è una brutta storia di una violenza familiare. Mi piaceva affrontare il problema anche perché secondo me nell'emisfero famiglia succedono le cose peggiori, le cose più orrende, che rimangono chiuse dietro una porta e che invece sono come quando uno alza una pietra e sotto c'è un verminaio, no? Ed è spaventoso. Però è interessante andare a vedere come reagisce un poliziotto di fronte a una cosa del genere, ma non un poliziotto, lui. Che con le donne è un nervo scoperto questo per Rocco, il rapporto con le donne, con la moglie che non c'è più e con le altre donne che incontra. E gli capita esattamente quello che lui forse sperava in vita sua non gli dovesse mai capitare. Invece è carino, è sempre bello metterlo di fronte alle cose orribili, il tuo personaggio. È una forma di amore in realtà. Ecco, senti, visto che abbiamo parlato anche un po' male di Rocco, insomma, sì. Gli abbiamo fatto vedere tutte le parti più peggiori, insomma, più tenebrose, ti chiedevo di leggere una cosa invece molto simpatica, che io ho trovato molto divertente, ed è la sua scala Richter, diciamo. Vedi, la scala Richter. La prendiamo dall'ultimo libro. Allora. Italo, che è il suo braccio destro, annuì condividendo in pieno l'opinione del suo capo. Sapeva infatti che le seccature o rotture di coglioni della vita il vicequestore le aveva catalogate per gradi, dal sesto in su. Nella sua personalissima scala di valori, al sesto grado c'erano i bambini che urlano nei ristoranti, i bambini che urlano nelle piscine, i bambini che urlano nei negozi, in generale i bambini che urlano. Poi le telefonate, che offrono impossibili contratti convenienza per luce, acqua, gas, cellulare. La coperta, che scappa dal materasso e scopre i piedi in una fredda notte d'inverno. E gli apericena. Senza offesa, Fabrizio, ma tanto voglio dire non... Parla Rocco. Al settimo grado c'erano i ristoranti lenti nel servizio, gli intenditori di vino e il collega che aveva mangiato aglio la sera prima. All'ottavo gli spettacoli che andassero oltre l'ora e un quarto, fare o ricevere regali, le macchinette dei videopoker e Radio Maria. Al nono grado c'era l'invito a un matrimonio, a un battesimo, a una comunione o anche semplicemente a una festa. I mariti che si lamentano delle mogli, le mogli che si lamentano dei mariti. E al decimo grado, Sul podio più alto delle rotture di coglioni, il massimo che la vita bastarda gli poteva propinare per rovinargli le giornate, regnava sovrano il caso di omicidio sul gruppone. E quello di Esther Baudo lo era diventato in pochi minuti davanti ai suoi occhi. Sì, questa è la sua personalissima, diciamo, scala delle rotture di scatole. E, due sono anche mie. Per esempio, ho riconosciuto gli spettacoli che andassero oltre l'ora e un quarto. Qui parla l'attore. Qua parlo proprio io. Io mi ricordo che in Accademia mi portarono a vedere uno spettacolo di un grandissimo regista, che poi fu anche mio maestro in Accademia, che si chiama Luca Ronconi. Andammo a vedere un testo di Arnold Holz, perdonatemi la pronuncia, il tedesco non lo conosco, Ignorabimus. Durava 12 ore, non scherzo. È storia, non è... 12 ore, in due giorni diversi. 6 ore un giorno, e come poi, se non bastasse, la mattina dopo te ne facevi altre 6. Tornammo in Accademia col treno, io ero senza parole. Una scenografia, delle attrici, un testo, una rottura di coglioni che io non ho mai avuto, pensavo possibile. 12 ore, 4 attrici, donne che facevano le parti da uomo, una cosa... Però siccome si era in Accademia, si era giovane, si doveva dire meraviglioso. Poi c'era un gruppo di carbonari di cui facevo parte, dicevo, oh ragazzi, mai più, cioè il prossimo che mi dice dobbiamo andare a vedere Ronconi, mi do malato, mi butto dalla finestra, non ci torno più a vedere, non ci torno più. E poi anche colpa mia che una volta io ho fatto una roba, non dico con chi, che erano quei drammi da camera di Strindberg. Oh, per chiunque abbia avuto la sventura di leggere i drammi da camera di Strindberg, non si capisce niente quando li leggi la prima volta. Per cominciare a capire qualcosa devi arrivare alla decima lettura e cominci a capire, primo, che non stava bene e poi soprattutto che sono testi molto ostici. C'era un pazzo che ci fece fare con un teatro stabile 4 drammi da camera di 4, uno dietro l'altro, 6 ore e mezzo di spettacolo con delle maschere di lattice in faccia, che siccome ci sudavi dentro, tu ci avevi, grondavi sudore dappertutto, e io guardavo il pubblico e dicevo andatevene. Perché state qua seduti? Prendete, andate, fatelo anche per me, perché se ve ne andaste tutti, noi dobbiamo interromperci perché non c'è più pubblico, il teatro c'ha questo come primo, no, elemento fondante. Non se ne andavano e io le prime due sere ho detto, ma perché non se ne vanno? Poi ho scoperto, dormivano. Dormivano tutti, ma anche comodamente, c'era voi gente che facevamo quelle cose così, no? A che noi ci abbassavamo, piano piano, cominciavamo a parlare sempre più a bassa voce. Poi a un certo punto erano due, erano svegli che peraltro avevano lo sguardo, sai quello che... Madonna, devo pagare la bolletta dell'Enel. Ma l'ho chiamato poi al direttore della banca, speriamo che quella assegno, pensavo proprio ai fatti loro. A che si faceva? Si chiamava la versione pendolino, che all'epoca c'era il pendolino, il treno veloce, cioè si saltavano intere scene, battute, non si capiva niente, per cui non è che se non entrava il vecchio cocchiere si alzava uno dal pubblico, manca un pezzo della storia, dov'è il vecchio cocchiere? Ma che ne sa? Per cui andavi dritto e durava 1:40, 1:50, andavo, ma però ci ho capito niente, però almeno è durato poco e se ne andavano felici, che è così. Questo, quindi gli spettacoli vanno oltre l'ora e un quarto, ci sono anch'io, anche Radio Maria ci sono anch'io, anche un po' i bambini. Però no, c'è la cosa che anche sull'altro libro c'è una scala, perché lui ogni volta ce n'ha di diversi, uno che non sopporta niente in realtà, pesantissimo, cioè, avercelo come amico è un incubo questo qui, non sai mai che fargli fare. Gli spettacoli oltre l'ora e un quarto, sì, ecco, no, questo è proprio personale. E poi, non facendo più l'attore, ma c'ho purtroppo ancora molti amici che lo fanno, che ti chiamano e ti dicono, sto facendo uno spettacolo bellissimo, vieni a vederlo. Dico, va bene, quando? Il 15 maggio. Sto a Locarno. Dice, perché? Ma no, lascia stare, una storiaccia. Devi essere pronto a dire, ah no, ecco, devi essere pronto a dire, voglio dare, lo dicevo a Fabrizio, un consiglio. Sui contratti luce, gas, telefono, che credo anche qui in Ticino chiamino, no, al telefono, buongiorno, vogliamo offrirvi... Io per caso ho trovato una risposta geniale che blocca qualsiasi tipo di... ma è casuale. Noi abbiamo Vodafone e TIM, per fare un esempio. Se ti chiama Vodafone e ti dice abbiamo un contratto, dice, guardi, io sono sponsor TIM. Questa parola sponsor blocca tutto. Ti chiedono anche... ah, scusi, mi mettono giù. Perché sponsor, sponsor team, non possiamo rompergli le scale, ma non sanno neanche che stai a dire, però sponsor è una parola che blocca l'individuo dall'altra parte, è geniale, l'ho provato tante volte, invece di discutere, senta non mi rompa le scatole, sono le 7:30, voglio cenare, no, sono sponsor dell'altro, non bisogna mai sbagliare che se ti chiama Vodafone, sono sponsor Vodafone, ah, non mi risulta. Ah, e lì hai fatto una figura peregrina proprio, e qui ti devi sorbire tutta la telefonata, ma insomma. Sono sponsor di un altro, c'ho l'esclusiva, capisci? Quindi mi scusi, ti chiedono anche scusa. Poi magari se cominci ragionano anche, ma sponsor, chi è questo che c'ha lo sponsor? Per chi c'ha lo sponsor? Però non lo sanno, non lo possono sapere. E quindi è una buona risposta. Senti una cosa, mi aggancio a questa dello sponsor, perché sì, ho notato un particolare che mi è rimasto, cioè non l'ho messo a fuoco come nei gialli, no? Ho visto un particolare che poi però non riesco a vedere. Tutti e due i tuoi libri hanno, non dico la soluzione, perché non è la soluzione, tu sei molto bravo secondo me a tenere fino all'ultima pagina, però hanno una scena culminante davanti a un prete. Non so se ci hai fatto caso, è una coincidenza. No. Da dove arriva questo? No, non è una coincidenza. Vabbè, il rapporto con la religione è un rapporto complesso. Mi divertiva in tutti e due i libri mettere un testimone, come testimone del dramma, il prete, che in realtà dovrebbe essere colui che è stato testimone del dramma più grande dell'umanità, o almeno così la raccontano, no? E mi piace vedere la reazione dei due preti diversi, che sono due reazioni completamente diverse, ma perché è un po' il discorso di Radio Maria in realtà. Cioè, è un po' complesso e lungo, in realtà è un divertimento, semplifichiamolo, è un divertimento che mi sono voluto prendere perché il prete, che soprattutto nei paesi piccoli assolve al compito anche della psichiatria, cioè colui che indaga l'animo umano, è colui a cui tutti quanti si rivolgono o si rivolgevano per spiare i peggiori segreti. Quindi è uno che sa tanto, non soltanto dei fatti tuoi, ma di tutti i fatti della piccola comunità, in questo caso sono piccole comunità. E però il prete vive la stessa idiosincrasia del poliziotto. Anche lui in realtà dovrebbe agire in un certo modo, come almeno la dottrina gli insegna, ma fa altro. Tutti e due i preti fanno altro, deragliano dal loro, diciamo così, dal loro sentiero pastorale. E questo mi diverte, perché hanno, in realtà sono lo specchio di un'altra figura sociale, come appunto il poliziotto, cioè di persone che vivono di idiosincrasie e di contraddizioni. In questo caso serviva un prete, perché mi piaceva che questo personaggio fosse un personaggio cattolico, osservante, sulla costola d'Adamo e molto molto molto vicino alla Chiesa. E mi divertiva vedere come avrebbe reagito il suo padre spirituale quando avesse saputo queste cose che sono successe nel libro. È divertente muovere un prete, soprattutto. Non lo faccio più perché l'ho fatto due volte, adesso lasciamo perdere. È divertente vedere una figura che dovrebbe essere distaccata su un altro pianeta, in tutto e per tutto, sugli anelli di Saturno, vedere invece come debba arrancare dentro i fatti umani. Ci sono dei preti, anche qui il discorso è generalizzato e non si può fare, sono dei preti meravigliosi come Don Diana, che, no? E ci sono persone santificate un po' così, perché va de moda. Insomma, sono agnostico, per cui non posso giudicare la Chiesa Cattolica, non ne faccio parte, quindi... Però sono italiano, ce l'ho proprio dentro casa, cioè il Vaticano sta là, quindi non posso far finta che non ci siano, no? si vede anche da quello che succede nel mio paese, che sono molto presenti, ma tanto, e ho fiducia in questo signore che c'è adesso, mi è molto simpatico, Francesco. E, no, ma mi sarei aspettato Papa Luciani, santo, non so perché, però io sbaglio sempre, infatti non faccio mai le scommesse. Insomma, per l'idea che mi ero sempre fatto da piccolo dei preti o delle, insomma, dei padri spirituali, ci si avvicinava più lui. Non lo so, però sono opinioni così, del momento, fatte qui nel Ticino, che non so neanche, però dove ero, sono arrivato puntuale, a questo ci tengo, ci tengo a dirlo. Quindi il prete è una figura importante, ho avuto a che fare con i preti, abbiamo fatto la comunione, sono comunque nato, battezzato, per cui mi sono divertito anche con i preti a giocare a calcio, ho avuto anche ho un cugino prete, argentino, che era un campione di rugby argentino, meraviglioso, è diventato prete, è un frate anzi. Cioè se non sono sportivi in Argentina non... Ah no, non vai da nessuna parte. Non li fanno manco a niente. No, proprio non esiste. E con lui mi sono fatto chiacchierate meravigliose, Don Pablo, meravigliose, anche se parla, habla così, però è molto interessante, è divertente, vai a toccare delle cose che ci appartengono, no? Io ci sono nato dentro e è divertente vedere un prete che dà uno schiaffo a uno perché l'ha offeso, perché il prete è un uomo, no? È solo un divertimento. Guarda, è una cosa che mi piaceva dirti adesso così alla fine di questa chiacchierata, perché anche noi dobbiamo essere puntuali. Qui, ma certo, è difficile toccare personaggi prete, si rischia sempre di cadere nella macchietta, e se questi mi sono rimasti in mente penso che sia perché hai saputo, come hai fatto con Rocco, hai saputo tirarli fuori, forse così in chiusura è una delle cose per cui io mi sento di consigliare questa lettura, cioè respira l'uomo insomma in questi tuoi personaggi, anche in quelli che sono così ad altissimo rischio di stereotipia, ad altissimo rischio di figurina piatta, invece tu riesci sempre a scavargli qualche cosa che non ci si aspetta. E non abbiamo parlato delle donne, perché anche Nora, insomma, è un bel personaggio. Nora. Facciamo due parole su Nora. Nora è bella. Nora è bella da morire e vende abiti da sposa. E chiaramente non è sposata, no? È come il prete, non si sposa ma officia matrimoni. E Nora è bellissima, Nora a Rocco gli piace tantissimo pure a me. E, però vuole una cosa che Rocco non potrà mai darle e si farà la sua vita perché non sta lì mica ad aspettare, insomma, è una donna del 2014, non della metà dell'Ottocento. Ma lui si vorrebbe innamorare, io lo sento che si vorrebbe innamorare. È quasi pronto, ancora no. Però si deve innamorare, no? Non può non. E deve soffrire tantissimo, forte forte, se lo merita. Ci sto pensando, insomma. Allora, nel ringraziare davvero della sua generosità Antonio Manzini, come si usa, faccio alcuni piccoli annunci, e cioè che Antonio è qui ed è anche, come lo vedete, quindi anche disponibile sia per chiacchierare che magari per firmare qualche copia dei suoi libri, e che naturalmente questa edizione prosegue come ormai d'abitudine con un film che ha scelto ancora una volta Gino Buscaglia e che è un'anteprima per la Svizzera, è un film famoso, di un regista famoso, perché abbiamo la migliore offerta di Giuseppe Tornatore, ma prima abbiamo incontrato Gino Buscaglia e ci ha detto che il film è ancora privo di distributore, quindi è insomma un regalo per... Io so come va a finire, dunque, la storia è questa. Questa Rocco la farebbe. Non la dico. E prima però c'è una sorpresa, ma essendo una sorpresa io non posso dire niente, per cui chiudo qua ringraziando davvero Antonio Manzini. Grazie, grazie tanto. Grazie. Grazie mille.